Buonasera Chiesa, che bello trovarci e ritrovarci. Sei felice di chi hai a fianco? Che bello. Che bello. Ma anche di chi hai dietro e chi hai avanti, eh? Perché ci apparteniamo, perché siamo famiglia, perché siamo l'uno dell'altro. Se ne sono andati, mi hanno fatto... Io sono arrivato qui sopra perché sono già stanco, perché hanno chiesto che dobbiamo lodare, glorificare, mi sono dato tutto me stesso, non ho più fiato, non ho più forze, ma è bello glorificare Dio attraverso i canti, è la cosa più stupenda. Andiamo alla parola, il soggetto di questa sera, va intorno a grande e forte, ben equipaggiato e sicuro di sé. Ora devo fare una premessa perché è venuto questo tema, questo messaggio nel mio cuore che il Signore ha messo. Praticamente quasi ogni volta che io saluto, abbraccio uno dei giovani, dicono sempre: da grande voglio essere come a te. E questo lo dicono sia per incoraggiare, sia per farti sentire un poco più giovane, per dire che non sei da buttare via. Allora, però è bello. E allora lì ha fatto sorgere proprio dentro di me la domanda: e io da grande come chi voglio essere? E spero tanto e prego che io non vi scandalizzi questa sera rivelandovi come chi ho sempre desiderato e ammirato e aspirato ad essere. Golia. Dice: ma fra tanti personaggi biblici, proprio quello che è negativo, che ha insultato il Signore e il suo esempio, c'è una motivazione, è logico. E tutte le nostre motivazioni molte volte hanno radici molto lontane, affondano le radici nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. E infatti io proprio questo voglio poi adesso raccontarvi, però voglio leggere prima insieme a voi, proprio per vedere la motivazione di questo tema, in 1 Samuele, al capitolo 17, dal verso 4, vediamo il perché di questo. Dice: dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gat, alto 6 cubiti e un palmo, aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Capite? Golia, alto e forte, ben armato, ben equipaggiato e tanto sicuro di sé da lanciare delle sfide. Ora, perché questa mia aspirazione? Come dicevo, ha radici lontane che forse molti di noi hanno. Quando io ero... adesso chiamano preadolescenza, a noi si era adolescenza fino a 18 anni, 20 anni, era ancora bambino, i tuoi ti chiamavano. Nella mia preadolescenza, 13 anni come mio nipote, l'unico diversivo che avevamo nel piccolo paese di origine era il cinema. E facevamo di tutto per andare a cinema. Io ricordo ancora che costava 15 lire un biglietto. Ora, per capire l'equivalenza, era che con 5 lire all'ora potevamo comprare un gelato. Allora, fare 15 lire, andavamo a raccogliere ferro vecchio, andavamo a raccogliere tante di quelle cose per vendere, per fare le 15 lire e andavamo a cinema. Quali erano i film che davano allora? I film erano Ercole, Ursus, Sansone. Poi c'era la variante, cambiava ed era Ercole contro Sansone, Ursus contro Ercole. E questi erano i film che noi vedevamo. E andavamo con gli amici, eravamo in tre. E quando uscivamo dal cinema, dopo aver visto tutte quelle scene, tutte quelle performance che alzavano masse, che erano di polistirolo, ma per noi erano veri, allora noi nel camminare ci atteggiavamo e dovevi avere pure una camminata particolare perché dovevi far vedere che avevi i muscoli fra le gambe e quindi si camminava. C'era tutta una teologia intorno a questo fra noi amici, non così ma così. Però voi dovete immaginare che io quando mi sono sposato avevo 25 anni, pesavo 51 kg. Pensate nella mia adolescenza, non mi si vedeva nemmeno, e noi ci atteggiavamo. Allora, ecco che dentro sempre il desiderio, lo capite ora, di essere grande, di essere forte e di essere in quella maniera. Poi, a un certo punto, uno dei tre amici se ne venne con una macchina fotografica. Il padre aveva una macchina fotografica. Dice, no, noi ci dobbiamo fare le foto da culturismo, da bodybuilding, come si dice, no? Con quelle pose, quelle cose. E allora andammo in campagna, non lo so per vergogna o per che cosa, in campagna si andava a fare queste. Rigorosamente in mutande, perché dovevi mostrare i muscoli. Mutanda, inutile dirle, erano taglia unica, quindi e poi abbiamo fatto tutte queste tante foto a te, tante foto a me, e poi l'abbiamo spedito, perché allora dovevi spedire il rullino, era un rullino nella macchina fotografica, e dopo un mese ritornato indietro, la gioia, noi non stavamo nella pelle per vedere, e ci mettemmo sul muretto al solito dove ci mettevamo, ha preso tutte le foto e messe lì. E li guardavamo. O nessuno le ha volute. Dopo che le abbiamo pagate, nessuno le ha volute. Non ho nemmeno una foto di quella situazione. Perché? Perché le abbiamo buttate. Era talmente una cosa da non vedere. Ecco l'aspirazione. Capite l'aspirazione di essere forti e grandi e ben armati e ben potenti. Da questo viene. Ma, a parte questo, noi, anche tutti quanti noi, molto spesso aspiriamo ad essere grandi e forti come Golia. Golia era alto qualche centimetro in meno di 3 metri, quindi era un gigante, era qualcosa proprio di immenso, non puoi capire nemmeno, 3 metri di altezza, era di una forza incredibile dall'armatura che viene descritta, era un campione, cioè questo aveva vinto già tante di quelle battaglie, che era orgoglioso e forte di sé. Ma io vedo che spesso, che troppo spesso, che qualche volta anche noi aspiriamo in maniera spirituale a questo. Quando noi diciamo, anche nelle nostre preghiere o nelle nostre esclamazioni, ah Signore, se solo fossi guarito da quella malattia, io potevo pregare per tante persone. Ed è un velato rimprovero al Signore per dire, io non sono forte, perché io non guarisco da quella malattia ancora, che praticamente tu non mi guarisci. Oppure, se avessi la pienezza e la potenza dello Spirito Santo nelle situazioni da capire, allora lì io spaccherei il mondo, annunzierei l'Evangelo con autorità e con potenza. Se avessi. Questo vuol dire aspirare ad agire nelle proprie forze, con la propria autorità, con i propri attributi, possiamo dire in questa maniera. Però la cosa strana, sapete qual è? Che ad abbattere Golia non è stato un guerriero grande, forte, armato come lui, ma un ragazzino senza forza. È scritto di Davide che era solo di bell'aspetto. È con una fionda, cioè con una pietra. Praticamente io ho anche la teoria perché ha preso 5 pietre dal fiume e le ha messe nella bisaccia. Cioè praticamente era per controbilanciare il peso, altrimenti sarebbe caduto nel lanciare la... Perché una ne ha lanciata e ha abbattuto il gigante, e ha abbattuto il problema, che era per il suo popolo, che era per il suo re e che era per lui. Incredibile. E questi esempi, la parola di Dio è piena. Vi ricordate la Chiesa primitiva negli Atti degli Apostoli? È scritto che a un certo punto, Atti capitolo 8, è scritto che venivano cacciati e perseguitati. Quando uno è cacciato ed è perseguitato, dove si va a mettere? Come minimo in una grotta. E loro no. È scritto che annunziavano con gioia e fierezza, quindi possiamo dire con potenza, autorità, la parola di Dio, e si spandeva per tutti i luoghi dove loro andavano. Questo era l'atteggiamento di Davide. Non sono io che combatto, ma chi è con me? E ci sono altri esempi. Per esempio c'è quello forte molto di Paolo con i Galati. Questo per me è un esempio di vita incredibile. Paolo confessa ai Galati nel capitolo 4 che dice: è a motivo di una mia infermità che io vi testimoniai, che io vi annunziai l'Evangelo per la prima volta. Ah, Signore, se fossi guarito! Paolo era malato, pregava per i malati e guarivano, lui rimaneva malato, non lo so, ma diciamo lui rimaneva malato, le persone guarivano, accettavano il Signore. Non è quel tipo di forza e quel tipo di autorità, ma è il poter confidare. Ecco, la fonte della vera forza, la fonte della vera forza che noi possiamo avere è l'atteggiamento che avevano i primi discepoli, che aveva Davide, che aveva Paolo, quello di servire. Noi siamo, fratelli e sorelle, siamo servi del Signore, noi siamo tutti servi, ma una cosa è essere servi e un'altra cosa è servire. Servire vuol dire entrare in azione. Un cameriere è uno che serve a tavola, ma se lui non si muove, a che serve? E il più delle volte possiamo dire con me è così. Mi sento servo del Signore. Sento che sono al suo servizio, ma quando mi devo muovere mi faccio bloccare. Se fossi, e così via dicendo. Servire. Servi Dio. Servi i tuoi fratelli, come ha fatto Davide. Ha servito i suoi fratelli, ha vinto per loro. e vedi la forza di Dio che scaturisce da te. Sapete, c'è un'altra, ci sono molte storie molto belle, io mi nutro delle storie perché le storie le ricordi facilmente. Allora, quando io cerco di ricordarmi un versetto a memoria, allora ho una scusa davanti al Signore, dico: Signore, l'età è quella che è, non me le ricordo tanto bene. Però le storielle della Bibbia mi rimangono bene impressa. Vi ricordate di Giacomo e Giovanni? Giacomo e Giovanni aspiravano al ruolo. Mandarono avanti la mamma a dire: quando sarai nel tuo regno, uno a destra e uno a sinistra. E noi dobbiamo dire, lo possiamo dire insieme: grazie Signore. Lo potete dire ad alta voce? Non. È vero che non sapete perché cosa, ma va sempre bene ringraziare il Signore. Grazie Signore che tu non assegni ruoli, che l'unico ruolo che tu assegni è quello di servo. Perché se solo Gesù in quella occasione avesse detto: va bene, quando saremo nel mio regno, nel paradiso, uno a destra e uno a sinistra, voi pensate che i due fratelli non avrebbero litigato lì nel paradiso? Chi si doveva sedere a destra? Giovanni dice: io sono il discepolo dal cuore di Gesù, sono io che mi devo sedere a destra. Giacomo poteva dire: ma io sono il fratello maggiore, siamo capaci anche di litigare nel paradiso. Perciò, per questo motivo, il Signore non ha assegnato ruoli. Non il ruolo ci rende forte, fratelli e sorelle, ma il servire. Non quello che io posso possedere e avere, ma il mio servire la Chiesa. Non è il possedere. Vedete, Gesù poi nello stesso passo in Matteo capitolo 20 di Giacomo e Giovanni, subito dopo dice allora delle frasi che noi tutti quanti conosciamo. Dice: chi vuole essere grande deve servire. E poi aggiunge, dicendo, è incredibile quello come Gesù comprende il nostro cuore e le nostre aspirazioni, e poi aggiunge appunto come me. Io non sono venuto per comandare, per dirigere, per pianificare, io sono venuto per servire. È Gesù che lo dice, è Gesù che lo ha mostrato. È il servire la vera fonte della nostra forza, è il servire che ci permette di veramente vincere le situazioni che sono davanti a noi. Ma un'altra situazione, ma prima voglio dire di nuovo: non è essere come, non è fare come, è semplicemente farlo prima di. È inutile che cerchi di imitare, è inutile che cerchi di... Pure a Davide hanno cercato di mettergli l'armatura del re, non riusciva nemmeno a camminare. È inutile che cerchi di camminare come il re, è inutile che cerchi di imitare l'altro, è inutile che cerchi di essere come. Tu sei tu davanti al Signore. E quello che il Signore ha affidato a te è unico, è potente ed è grande. Solo una cosa: fallo, mettilo in opera, fallo prima di. Un altro esempio molto bello, l'ultimo di questa serie, poi passiamo al secondo punto, che per me è anche un forte esempio, Gedeone. Gedeone è proprio quello a se fossi. Gli appare un angelo del Signore che gli affida un sorte di compito e che cosa dice lui? Ah, se solo fossi, se la mia famiglia fosse la più grande del popolo di Israele, allora io potevo andare e vincere, ma la mia famiglia è la più piccola. Ah, se io fossi il primogenito, ma sono il più piccolo, non ho voce in capitolo. Gedeone è quello di se io fossi. Quale fu la risposta dell'angelo a Gedeone? Per piacere. No, quella era a Giosuè. La risposta dell'angelo a Gedeone, quale fu? Siamo messi bene, eh? Nemmeno le storie conosciamo, figurati il pastore, cerca di fare qualche verifica ogni tanto, che qui... Mo l'hai letto? No, è benissimo, Micaela, lo vede con... Va con questa tua forza! Ma quale forza? Sono il più piccolo e la mia famiglia è inesistente. È incredibile. Sai una cosa? Togli via le scuse o le scusanti dalla tua vita, dalla mia vita. E sai che cosa succede? Succede che i miei punti deboli diventano la mia forza. I miei punti deboli diventano la mia forza ed io posso operare e vincere e non abbiamo bisogno di guardare a immagini grandi e forti se fossi come. No, io sono quello che sono, dice anche l'Apostolo Paolo, io sono quello che sono grazie a Lui, grazie a Lui. Quindi poco o molto che sei, quello è quello giusto che serve al Signore per operare nel suo regno. Passiamo al secondo punto, altrimenti poi dobbiamo andare molto in fretta. Il secondo punto è, abbiamo visto, ben equipaggiato. Ma aveva un'armatura, quello già era grande e grosso e già bastava lui così. E invece aveva un elmo, avrà avuto già un testone grande, figuriamoci l'elmo quanto era. Aveva una corazza a scaglie, scritte, che è quella delle più forti e più pesanti, perché uno sopra l'altro, che pesava circa 51 chili. Prova a prendere 50 chili. Aveva dietro, poi aveva dei gambali anche, sempre di bronzo, che era il materiale più forte, più resistente a quell'epoca. E poi aveva dietro le spalle un giavellotto. Sapete, il giavellotto è quella specie di lancia che si butta molto lontano, molto preciso, molto leggero. E poi invece in mano aveva una lancia che, come abbiamo letto, era grossa, come il fuso di un tessitore, cioè praticamente allora questi fusi avevano il diametro circa di 10 centimetri, quindi era una mazza così grossa, solo la punta pesava 6 chili. Immaginate che cosa aveva nella mano. Nell'altra mano aveva la spada che non è descritta di quanto pesava e quanto grosso era, però sappiamo solo che quando Davide l'ha presa per tagliare la testa a lui, doveva essere molto tagliente e molto forte. Beh, immaginate a questo, solo fra i denti gli mancava qualcosa. E addirittura aveva pure uno scudo, ma non aveva dove portare, c'era uno che glielo scudiere che lo portava per lui. È incredibile quanto era armato. E noi... E devo dire, io il più delle volte aspiro a questo, quando dico «Ah, se solo avessi!» Quante volte ti viene da dire «Ah, se solo avessi!» E può essere più soldi, e può essere più tempo, e può essere più qualsiasi, metti quello che vuoi, «Ah, se solo avessi!» Ma se solo avessi che cosa? Che poi, anche se lo ricevi, non lo sai nemmeno utilizzare. Come Davide, gli hanno messa la corazza e non la poteva. Lui ha detto semplicemente, non riesco a camminare, non riesco a camminare. Usa quello che hai, perché questa è la tua forza nelle mani del Signore. Usa quello che hai. Non c'è bisogno di essere come o di fare come. Non c'è bisogno di assomigliare a. Usa quello che... Ma usalo. L'accento deve cadere su usalo. Non tanto quello che hai, che non è per niente importante, ma usalo. C'è una bella storia vera degli inizi del secolo scorso, quando c'era il risveglio in Inghilterra, c'era un potente evangelista e questo era Smith Wigglesworth. Non lo so chi ha letto i libri di Smith, vediamo chi ha letto i libri di... la vecchia guardia solo, va bene. Giovani, leggiamo. Non, qui la voglio dare già per scontato, non solo la Bibbia. No, ma è bella quella storia, perché questo uomo era un idraulico e si era sposato la figlia di un generale dell'esercito della salvezza, cioè di un pastore, diciamo così. E aveva un grande dono nella sua vita. E questa era la balbuzie. Era balbuziente. Non riusciva a parlare, era balbuziente. Quando erano in chiesa, mandava la moglie a predicare. Poi, al momento dell'appello, la moglie chiamava lui. Ma questo era balbuziente. Non sapeva parlare, non poteva parlare. Quanti di noi hanno sperimentato la balbuzie quando devi dire qualcosa che ce l'hai e non ti viene, e non ti viene, e non ti viene? Così era con lui. E sapete che cosa faceva? Stava lì sul palco e fissava negli occhi le persone e incominciava a piangere. Piangeva per i loro peccati, per la loro situazione. E queste persone, vedendolo piangere così commosso della loro situazione, s'alzavano e andavano avanti per accettare il Signore. È incredibile, non faceva niente, il pianto era il suo dono, la sua, diciamolo effettivamente, il suo difetto era la sua forza. Perché? Perché quando noi riconosciamo quelli che sono i nostri limiti, vuol dire solo una cosa, che il Signore lo deve fare con me, che il Signore lo deve fare per me. E mettiamo il Signore avanti. Perciò ecco che il tuo poco diventa molto. Vi ricordate anche gli apostoli? Quando Gesù disse, date voi da mangiare a questa folla di 5.000 persone. Quale fu la risposta degli apostoli? Non abbiamo che 2 pesci e 5 pani. E quel poco è diventato il molto. Ora, riconoscere ti mette nella condizione di dipendere dal Signore. Riconoscere ti mette nella condizione di fare come il Signore dice. E proprio in questo vediamo che l'Apostolo Paolo, a me piacciono molto gli esempi delle persone perché è vita vissuta, L'Apostolo Paolo dichiara in 1 Corinzi 12 al verso 10, un passo che tutti quanti noi conosciamo, è: quando sono debole, allora sono forte. Che cos'è uno slogan? Che cos'è una trovata pubblicitaria? No, Paolo diceva semplicemente: quando io arrivo al punto che non so e non riesco e non posso, allora la forza e la potenza di Dio si manifesta nella mia vita e io posso vincere. Perché poi l'altra cosa che lui ha detto è proprio questo in Filippesi 14. Lui ha detto proprio: io posso ogni cosa in chi? Colui che mi fortifica, in colui che mi fa diventare grande e forte, in colui che mi dà tutto l'equipaggiamento di cui ho bisogno. E io ho bisogno solo di una cosa: di dipendere da parte del Signore. Perciò la vera arma di cui dobbiamo, l'unica arma di cui noi dobbiamo appropriarci, fratelli e sorelle, è l'umiltà. L'umiltà di non aspirare a, ma essere quello che sei in Lui. Perché se è Gesù stesso che ti dice: io ti amo come sei, io ti accetto come sei, io ti voglio usare come sei, chi sono io che devo aspirare a essere Golia? È quello che noi, l'umiltà. E Gesù ha detto proprio: vuoi essere forte? Siate umili come io sono umile di cuore. È Gesù stesso che lo dice. In questo noi possiamo trovare tutta la vittoria, in quello che il Signore ci dà da fare, poco o molto. Non devi pensare: ma che io posso fare solo, io solo posso pregare a casa. E dici niente. È il fondamento di ogni attività che si svolge. È il fondamento di ogni missionario, è il fondamento di ogni ministro, il sostegno della preghiera. Quindi non è un poco o molto, è fare. Adesso, questo è ancora più dolce di quello di stamattina. Non l'avevo nemmeno sentito. Giuseppe, non ti avevo nemmeno sentito. Va benissimo. Devo andare verso la conclusione. Facciamo il terzo punto. Era sicuro di sé. Al punto tale che insultava l'armata del Signore, li sfidava perché si sentiva sicura della sua altezza e delle sue armi da poter vincere così. E quando noi diciamo sempre: ah, se avessi, sto confidando. Se io dico: ah, se avessi, sto confidando in me stesso. In 1 Samuele, al capitolo 17, sempre la storia di Davide e di Golia, leggiamo il passo 45, quello che dichiara Davide. Vedete? Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Davide non aveva forza e non aveva armamenti, ma aveva il Signore, quello che tu ed io abbiamo, quello che tu ed io abbiamo. È inutile che noi ci vogliamo atteggiare a, noi abbiamo solo una cosa: Cristo Gesù nella nostra vita. E infatti, sempre prendendo Paolo ad esempio, lui nella lettera ai Filippesi dice: sapete, io avevo di che vantarmi. Ebreo di ebrei, quindi appartenendo al popolo di Dio, della tribù di Beniamino. Quanto dice alla legge irreprensibile, quindi non peccatore, quanto allo zelo persecutore. Insomma, era uno che aveva di più e di tutto per vantarsi, ma poi nella lettera, fatemelo vedere, ai Corinzi, al capitolo 2, verso 2, nel verso 1 e verso 2, vedete, c'è scritto, sì, vedete che cosa dice e confessa Paolo. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza. E Paolo ce l'aveva, aveva studiato alla scuola di Gamaliele, che era la scuola più autorevole a quel tempo, quindi aveva conoscenza, aveva sapienza e aveva eccellenza di parole. Ma poi dice: poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo è Lui crocifisso. Grande, eh? È incredibile. Ecco a che cosa dobbiamo aspirare. Io non mi propongo altro. Io non voglio propormi altro che conoscere, che trasmettere Cristo Gesù e la sua croce che è dentro di me. E questo basta e avanza, fratelli e sorelle. Questo basta e avanza. E in conclusione, tutto quello che abbiamo detto, il Signore sai che cosa mi ha detto e ti sta dicendo e ci sta dicendo? Tu sei grande e forte. Non perché sei alto, sei cubiti, 3 metri, basta pure 1 metro. Vabbè, lasciamo stare le sottigliezze, non va bene? E il Signore si serve. Tu hai le armi adatte per vincere. Non c'è bisogno che vai ad acquisire altre armi. Il Signore ti ha equipaggiato della sua forza, del suo sangue, del suo perdono. E questo basta e avanza, fratelli e sorelle. Questo basta e avanza. E l'ultima cosa. La tua certezza non deve essere l'eccellenza di parola, la tua certezza non deve essere il fatto che Dio ha fatto un miracolo nella mia vita. Paolo era malato e pregava per gli altri malati. La tua certezza, come Paolo ha detto, è Cristo Gesù. E noi possiamo ogni cosa se facciamo affidamento nel Signore. Se noi dipendiamo dal Signore in tutti gli aspetti della nostra vita, noi usciamo più che vincitori per Lui e per noi stessi. Amen. Mi verrebbe da dire, ma vuoi vincere tu? Chi è che ha il coraggio di dire no? Perché sennò poi ben ti sta quello che hai. Ognuno di noi vuole uscire vittorioso. Allora dipendiamo dal Signore. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Padre, vogliamo dirti grazie per l'opera meravigliosa che tu hai compiuto tramite il Signore Gesù nella nostra vita, dandoci veramente ogni bene, ogni forza e ogni autorità. Signore, insegnaci nelle situazioni a poter usare quello che hai messo a nostra disposizione per il bene degli altri e dell'avanzamento del regno tuo. Perciò io invoco, Padre, io invoco nel nome di Gesù veramente che noi possiamo avere quella piena convinzione che tu sei con noi e nessuno potrà vincerci perché tu sei la nostra forza in ogni attività e in ogni situazione noi siamo più che vincitori in te, in Cristo Gesù. Amen.